2024 di Enrico Pagliarini. Puntata del 14 novembre 2009, benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Il nostro indirizzo digitale è 2024 e radio24.it. In questa puntata abbiamo molte cose da raccontare, parleremo più tardi anche di digitale terrestre che coinvolge dalla prossima settimana, da lunedì, gran parte del Lazio, la città di Roma in modo particolare, quindi alcuni milioni di persone sono coinvolte dal passaggio completo alla TV digitale terrestre. Oggi però facciamo anche il punto sul mercato mondiale della telefonia mobile con alcune notizie interessanti sui singoli produttori per capire che cosa stanno facendo, come si stanno comportando. Questa settimana Gartner ha diffuso i dati che descrivono le vendite del terzo trimestre dell'anno, vendite che crescono dello 0,1% e raggiungono negli ultimi tre mesi i 309 milioni di telefoni venduti. Quindi parliamo di un mercato di oltre 1,2 miliardi di telefoni ogni anno, quindi un grandissimo mercato, molto ricco. Per parlare di questi dati e del mercato è con noi Carolina Milanesi, che è collegata con noi da Londra, dove dirige il centro ricerche sulla telefonia mobile per Gartner. Carolina, bentornata a 2024. Grazie mille. Un mercato, partendo dai numeri, che potremmo dire presenta qualche segnale positivo, perché seppur appunto minima c'è stata una crescita negli ultimi tre mesi di questo mercato, Carolina. Sì, finalmente siamo arrivati a vedere una stabilizzazione del mercato e una leggera crescita, 300.000 unità non sono tantissime, però quantomeno danno un sospiro di sollievo alle aziende manifatturiere, che hanno avuto veramente un grosso problema quest'anno con la situazione economica, che ha fatto rallentare in maniera incredibile le vendite rispetto a anni precedenti. Parliamo naturalmente prima di tutto del mercato globale della telefonia mobile, poi magari scendiamo sullo specifico degli smartphone, che rappresentano una quota di mercato ancora minima, ma in crescita. È forse da lì che stanno arrivando la maggior parte dei ricavi per gli operatori. Guardando a tutto il mercato della telefonia, quindi anche ai telefonini che costano pochi dollari, 29 euro magari al supermercato, Nokia rimane il numero uno, la quota di mercato è quasi del 37%, siamo al 36,7%, una quota di mercato che è scesa di poco, vista la competizione globale. Questa è una buona notizia o comunque qualche segnale di preoccupazione per Nokia c'è? Ci sono delle preoccupazioni senz'altro per Nokia, perché nonostante il market share comunque, come dicevi tu, rimane veramente considerevole, quasi al 37%, è sceso però dell'1,5 rispetto all'anno scorso. La cosa più preoccupante non è però necessariamente il volume che viene venduto, ma il valore del volume che viene venduto. Il telefonino che dicevi appunto dai 26 euro al supermercato è la parte dove Nokia rimane più forte, invece che nella parte alta degli smartphone, dove giustamente, come dicevi, i ricavi sono senz'altro più significativi. E questa è la preoccupazione che si ha, che Nokia diventi un mass market come vendor, come prezzo di mercato in generale, ma che nella fascia alta competizione come RIM, come Apple, come HTC incominci a veramente dare un po' di problemi a Nokia. Nella posizione numero 2 e nella posizione numero 3 ci sono due aziende coreane che si dimostrano molto competitive sul mercato, in modo particolare Samsung, che è saldamente al numero 2 con una quota di mercato che si avvicina al 20%, ed LG invece che ha un 10%. Come si stanno comportando Samsung ed LG? Molto bene, è incredibile pensare che nel giro di un anno Samsung sia arrivato a consolidare una posizione che qualche anno fa era di Motorola. Ci ricordavamo quando, al tempo del Razor, quando le cose andavano ancora bene per Motorola, che erano intorno al 22-23% di quota di mercato, e parlavamo addirittura di un possibile scavalcamento al numero uno, e adesso invece abbiamo Samsung in quella posizione. La grande abilità che hanno i coreani è di essere molto molto veloci a vedere un trend e a seguire quel trend. In questo caso le fortune dell'ultimo anno sono intorno al touch, quindi alla possibilità di usare touch interface sui telefonini. il resto della tecnologia anche a livello di 3G e 3.5G, quindi la tecnologia più veloce dalla parte cellulare, anche veramente spinta nei prodotti di prezzo medio-alto, che quindi fa piacere agli operatori che stanno cercando di ricevere più ovviamente revenue dal punto di vista dei dati. LG è un po' meno brillante forse? Sì, LG ha sempre un po', diciamo, la sindrome da secondo, sono i più piccolini rispetto a Samsung, hanno una brand che è meno riconoscibile, hanno impiegato più tempo, specialmente se guardiamo all'Europa, ad avere un canale più organizzato, un canale al mercato più organizzato, e stanno seguendo Samsung al meglio possibile, diciamo. Il problema principale loro è che nella fascia alta il nome, quindi la marca, non è così forte. Queste dunque sono le prime tre posizioni, seguite da Motorola, che ha ridotto la sua presenza mondiale, pensate, al 4,5%, e che ora punta tutto o quasi tutto su Verizon negli Stati Uniti, con il Droid, di cui abbiamo parlato anche un paio di settimane fa, uno smartphone con sistema operativo Android che è in vendita anche in Italia, però con il nome di Milestone. Al quinto posto c'è Sony Ericsson con il 4,3%, e anche Sony Ericsson punta sul sistema operativo di Google con il nuovo Xperia X10, che è uno smartphone molto elegante che sarà però in vendita dal prossimo anno. Detto delle principali aziende, la cosa interessante è che un quarto del mercato, pensate, lo fanno gli altri produttori, li mettiamo in questa categoria, cioè quelli che hanno quote inferiori al 4%. Carolina, di chi stiamo parlando? Ma è un po' un mix, diciamo, perché hai dei nomi che comunque i consumatori magari riescono a riconoscere, come per esempio ZTE e Huawei, ma hai anche nomi che non vengono neanche menzionati, e parlo in questo caso di venditori cinesi che a volte non hanno neanche la licenza per poter vendere i cellulari, che fino all'anno scorso operavano principalmente in Cina, ma adesso vediamo anche dei telefoni arrivare fuori dalla Cina in Asia, in mercati come l'India, che ovviamente per la telefonia è un mercato molto molto importante, in America Latina, in paesi come UAE, quindi in Medio Oriente, e in Russia. E quindi questo mercato si sta allargando sempre di più, e non è più neanche solo un mercato di telefonia di $20, è anche un mercato che ti offre funzionalità più avanzate, con touch interface, con la fotocamera, con la megapixel camera e via dicendo, che quindi hanno più competizione con Samsung, con LG e senz'altro con Nokia. Finora non abbiamo citato Apple, perché Apple, se guardiamo la quota di mercato globale nel mondo della telefonia mobile, ha numeri molto, molto bassi e limitati, anche perché fa un prodotto e fa non un telefono ma uno smartphone, quindi un computer portatile, quindi è da inserire, da contare nella classifica che voi fate, che Gartner compila sul sottomercato, chiamiamolo così, sul segmento degli smartphone. Gli smartphone, lo ricordiamo per tutti gli ascoltatori, sono quei mini computer, o comunque che hanno un proprio sistema operativo non proprietario su cui si possono installare applicazioni, e spesso sono prodotti che costano alcune centinaia di euro. Apple ha comunque una quota di mercato rilevante, ma non è, come alcuni potrebbero pensare, prima nella classifica. Partiamo dal primo nome. Anche qua Nokia è numero uno in un segmento che, come dicevo, oggi rappresenta forse la parte del mercato più frizzante, forse più interessante in termini di valore. Sì, è senz'altro la parte dove gli operatori riescono a fare più soldi, questo senz'altro, e anche dal punto di vista dei consumatori è interessante, perché è dove tutte, diciamo, le novità dal punto di vista tecnologico, ma anche dal punto di vista di applicazioni e di, diciamo, intrattenimento, arrivano sul mercato. Come dicevi giustamente tu, Apple diciamo la focalizzazione è principalmente in questo settore, e anche non solo essere focalizzata, ma anche ha dato, diciamo, una nuova vita al settore, specialmente mercati come il Nord America, dove la parte smartphone non era veramente tenuta molto in considerazione. Per quanto riguarda l'Europa, la cosa secondo me veramente interessante è che abbiamo visto l'Apple veramente crescere nel tempo, e siamo arrivati dall'anno scorso a quest'anno a una quota del mercato che è del 20% in Europa, e la mette seconda dopo Symbian, che è il sistema operativo che usa la Nokia. Parliamo di sistemi operativi, perché, come diciamo spesso, il sistema operativo sta diventando sempre più importante in questo segmento degli smartphone. Abbiamo il sistema operativo di Apple sull'iPhone, abbiamo Symbian su Nokia, adesso Nokia sta introducendo anche un sistema operativo Linux sull'N900 che sta arrivando nei negozi, e abbiamo invece un prodotto multicellulare, perché esistono vari produttori che adottano l'Android di Google. Qual è il sistema operativo che tu pensi possa diventare il più competitivo nei prossimi mesi, nei prossimi anni? Sicuramente Android, se guardiamo l'attenzione che c'è stata sia dal punto di vista delle aziende manifatturiere, tutti adesso, a parte Nokia, stanno guardando Android come un'opportunità, come piattaforma, sia dal punto di vista degli operatori mobili, guardiamo, come ho detto prima, al grosso sforzo che sta facendo a livello di marketing Verizon in America. C'è molta attenzione a questo sistema operativo che a livello di touch interface ti dà la cosa più vicina all'iPhone che abbiamo visto, che a livello di browsing ti dà, quindi l'internet sul telefonino, ti dà anche un'esperienza simile a quella dell'iPhone. Sì, l'iPhone rimane sempre, diciamo, la Ferrari della telefonia mobile, però Android ha veramente una grossa speranza, diciamo, che il mercato di domani avrà delle innovazioni anche che non vengono necessariamente solo da Apple. Se vogliamo dare uno sguardo ai prossimi mesi, tu quali trend di mercato vedi più spiccati, quindi su che cosa punteranno maggiormente i produttori di telefonini, ma in modo particolare di smartphone? Secondo me sarà l'usabilità dei prodotti, e quindi abbiamo visto tantissimo i produttori focalizzarsi su cercare di fare il prodotto più semplice, nel senso che adesso questi telefonini fanno di tutto, e specialmente dal punto di vista dei contatti, quindi delle persone che tu hai nella tua rubrica, diventa più difficile gestirle, perché non è che usiamo il telefono solo per chiamare, usiamo il telefono per SMS, usiamo il telefono per email, ci sono tantissimi utenti che sono interessati a Facebook, a Twitter, e quindi hai un modo di comunicare che è molto molto più ricco di 5-6 anni fa, e l'importanza che adesso viene veramente sottolineata da tutti gli operatori è di cercare di rendere la vita più facile al consumatore e organizzare questi modi di comunicare intorno alla persona. E quindi, se io per esempio ho il tuo nome nella mia rubrica, posso vedere sotto il tuo nome tutto quello che ci siamo scambiati a livello di comunicazione, invece di dover lavorare a, diciamo, compartimenti dove se faccio email sono da una parte del telefono, ma se voglio fare SMS devo andare da un'altra parte. E questo secondo me aiuterà moltissimo il consumatore a veramente sfruttare di più il telefonino. Molto chiaro. Io ringrazio come sempre Carolina Milanesi per essere stata con noi. Buon lavoro e a presto. A presto, arrivederci. Era Carolina Milanesi, che a Londra dirige il centro ricerche sulla telefonia mobile, che gli inglesi chiamano mobile devices, anche perché oramai chiamarla telefonia è un po' riduttivo, visto che parliamo di prodotti tecnologicamente molto più avanzati. Comunque, dicevo, Carolina Milanesi dirige il centro ricerche di Gartner, che si occupa del mondo della mobilità in tutto il mondo. Naturalmente sarebbe molto interessante guardare i singoli paesi. Pensate che ci sono delle differenze incredibili anche come quote di mercato tra i singoli paesi europei, figuriamoci poi se andiamo ad analizzare l'Europa confrontata con gli Stati Uniti. Dicevamo poco fa che è il settore degli smartphone che traina questo grande mercato della telefonia mobile, anche se siamo ancora a pesi piuttosto diversi, perché nel mondo vengono venduti più di 300 milioni di telefoni in un trimestre, quindi 1.200.000.000 di telefoni circa in un anno. In un trimestre, su 300 milioni di telefoni, solo 40-41 milioni sono smartphone, quindi per il momento la quota di mercato è ancora bassa. Cresce mese dopo mese questa quota, ma dicevamo è da qua che arrivano i margini più elevati, quindi è qua che si fanno i soldi ed è da qua che arriva anche l'innovazione. A conferma di tutto ciò parliamo di Apple, che nel terzo trimestre è, secondo una stima che è stata fatta da un'altra società di analisi, cioè da Strategy Analytics, nel terzo trimestre Apple è il produttore che ha generato il più alto utile nel segmento degli smartphone e ha superato anche Nokia. Questi giorni è in distribuzione per Nokia l'N900, un prodotto guardato con molto interesse soprattutto per il sistema operativo, un sistema operativo basato su Linux, sulla versione Memo di Linux, che è pensata proprio per i prodotti come gli smartphone, un prodotto touch con anche una tastiera. Vedremo poi come risponderà il mercato. Adesso parliamo di un altro mercato, parliamo dell'e-commerce italiano, con alcuni dati che sono stati presentati in settimana dall'osservatorio sull'e-commerce B2C, così dicono gli esperti, cioè business to consumer, cioè proprio il commercio elettronico verso il consumatore finale, un osservatorio di Netcom e della School of Management del Politecnico di Milano. Il responsabile scientifico è Alessandro Perego. Benvenuto 2024, Perego. Grazie. Beh, partiamo da un dato giusto per capire se le cose vanno bene o vanno male in tempi di crisi in cui magari i consumatori faticano a spendere soldi. Per quanto riguarda il commercio elettronico italiano, qual è la temperatura della febbre? Esiste un problema oppure no? Ma diciamo che il dato non è malvagio, parliamo di circa 6 miliardi di euro di fatturato, che è un più 1% rispetto allo scorso anno, ma se vuole il dato positivo è che questo più 1% corrisponde in realtà a un più 13% di ordini e a un meno 10% nel valore dello scontrino medio. Quindi diciamo si spende un poco di meno quando si fa un acquisto, ma se ne fanno di più. Esattamente questo. Senta, se volessimo far capire agli ascoltatori quanto pesa il mercato elettronico sul mercato generale italiano, quale numero possiamo citare? Possiamo dire che il commercio elettronico pesa circa l'1% sul mercato complessivo, quindi ancora un numero piccolo, soprattutto se confrontato con un 6-7% che è il peso del commercio elettronico rispetto al consumo complessivo nei paesi più avanzati, penso agli Stati Uniti e all'Inghilterra ad esempio. Quindi anche su questo fronte siamo un po' più indietro. Quali sono secondo lei i motivi? Sicuramente, questo lo diciamo spesso, la diffusione meno pesante di internet in Italia, anche l'utilizzo meno frequente che si fa di questo mezzo di comunicazione nel nostro paese, ma dal vostro punto di vista, dal vostro osservatorio, quali altri problemi ci sono? Ma diciamo intanto che il numero di internauti in Italia non è molto dissimile dal numero di internauti in altri paesi, parliamo di circa una trentina di milioni di consumatori, esattamente come in Francia ad esempio, non molto dissimile dal valore dell'Inghilterra. In realtà la vera differenza è quanti di questi internauti comprano su internet. In Italia sono solo 1 su 5, mentre ad esempio in Inghilterra sono 2 su 3. Questo è il reale elemento di differenza. E dal nostro punto di vista il motivo non è tanto legato alla diffusione o meno della banda larga, ma alla reale disponibilità di offerta per l'acquisto online, quindi quanto un consumatore italiano trova prodotti interessanti, convenienti nei siti di commercio elettronico in Italia. Quindi lei, diciamo, non dà tanto la colpa ai consumatori quanto a chi vende, ai commercianti? Esattamente questo. Se lei prende, noi l'abbiamo fatto, e si mette a elencare tutte le principali insegne della distribuzione moderna in Italia e prova a vedere che tipo di presenza hanno online, quindi se hanno o non hanno un sito di commercio elettronico, e se anche hanno un sito di commercio elettronico, che tipo di gamma offrono su quel sito e a quali prezzi, trova dei risultati un po' deludenti, trova una significativa assenza di grandi insegne, e trova molti progetti di tipo pilota che però non inducono particolarmente il consumatore all'acquisto perché offrono una porzione limitata della gamma e con prezzi allineati a quelli dei punti vendita tradizionali. Questo è molto interessante, c'è forse il timore tra i commercianti di una cannibalizzazione del loro business principale, ad oggi principale, poi magari fra 10 anni sarà marginale. Senz'altro, i motivi che noi abbiamo riscontrato sono essenzialmente due. Uno, quello che lei ha appena citato, un timore di cannibalizzazione, tutto sommato vero, ma bisogna affrontarlo, perché quella cannibalizzazione può avvenire internamente o può avvenire da parte dei concorrenti. Certo, quindi, se non lo faccio io, lo fanno gli altri. Quindi. Esattamente questo. E il secondo motivo è una reale difficoltà, perché non ci si può improvvisare commercianti online. Questo richiede delle competenze e una capacità diverse da quelle che sono normalmente presenti all'interno dei commercianti tradizionali. Questo percorso è un percorso lungo. I principali leader, diciamo, del commercio elettronico in Italia sono aziende che da molti anni coltivano queste competenze e lavorano per mettere in piedi un processo logistico, ad esempio, un processo di customer service o un processo di gestione dei resi o un processo di pagamento che siano all'altezza del consumatore. C'è chi dice che le opportunità messe a disposizione del commercio elettronico siano incredibili, ma in effetti sia comunque difficile fare commercio elettronico, comunque non facile come aprire un negozio su una via, magari una delle principali di una città. Insomma, le cose sono un po' più complicate. Assolutamente, pensi ad esempio alla difficoltà enorme che c'è nel vendere prodotti alimentari online. Vendere prodotti alimentari online vuol dire che dietro le quinte c'è qualcuno che deve fare sostanzialmente la spesa, quindi girare con un carrello, riempirlo, invece del consumatore finale, prendere quella merce e portarla a casa del consumatore finale in una finestra oraria di circa un'ora, un'ora e mezza. Capisce bene che il mettere in piedi un sistema logistico per fare questo non è uno scherzo da poco e i costi per farlo non sono piccoli, quindi bisogna lavorare per rendere efficiente ed efficace questo processo ed è un lavoro lungo. Certo, di prodotti alimentari se ne vendono ancora pochi su internet, che cosa invece si vende soprattutto? Allora, in Italia si vende soprattutto turismo. Turismo vuol dire biglietti per il trasporto, vuol dire pacchetti viaggio, vuol dire prenotazioni alberghiere. Questo vale circa un 50% del mercato in Italia. Per il resto si vende informatica ed elettronica di consumo, si vendono assicurazioni, RC auto e si vende abbigliamento. Si inizia a vendere abbigliamento e questa è una buona notizia, sì, oltre che i tradizionali libri. Sì, che sembra quasi incredibile. Uno per comprare un vestito potrebbe pensare deve andare nel negozio, lo deve provare, invece sta crescendo questo tipo di commercio. Sì, diciamo con una forte differenza tra l'Italia e il resto del mondo. Nel resto del mondo, quindi mi riferisco ad esempio a Francia, a Germania, Inghilterra, Stati Uniti, si vende tanto abbigliamento di basso livello, di bassa categoria, quindi penso a tutto lo sportswear ad esempio. Ecco, invece in Italia si vende tanto abbigliamento di lusso, va molto il fashion online. Il fashion online perché i gusti degli italiani sono un po' più raffinati, diciamo così, forse sull'abbigliamento, dei gusti dei loro omologhi negli altri paesi. Senta, in questo caso sono le aziende, le tradizionali aziende che producono e vendono abbigliamento, grandi marche, o sono negozi specializzati online che vendono prodotti di altri? Fortunatamente entrambe le cose, ci sono sia delle aziende che noi chiamiamo .com, cioè quelle aziende che sono nate per operare esclusivamente su internet, ad esempio Yux per citare il leader di mercato, e ci sono anche delle aziende che usano un modello molto particolare, che è quello del club online, per cui si organizza una vendita esclusiva a un insieme di consumatori predefinito di prodotti di fashion con sconti particolarmente sostenuti, e questo è un modello che si sta molto diffondendo in Europa e anche in Italia. E poi esistono anche i brand tradizionali, quindi adesso potremmo citarli più o meno tutti, che negli ultimi paio di anni sono scesi con un loro specifico negozio online. Quindi questa sicuramente è una buona notizia, anche perché spesso questi brand possono spendere molti soldi e possono anche fare da apripista per altri mercati. Le faccio ultime due domande, una sui sistemi di pagamento, si parla spesso di sistemi di pagamento, ma prima volevo capire, i siti italiani di e-commerce vendono prevalentemente in Italia o riescono anche a essere competitivi verso altri mercati, cioè vendiamo anche all'estero? Vendiamo anche all'estero, circa un 20% di quei 6 miliardi che le dicevo prima, quindi oltre un miliardo, è export, quindi sono vendite all'estero, essenzialmente di che cosa? Essenzialmente di prenotazioni alberghiere e pacchetti viaggio, da una parte, e dall'altro fashion, come le dicevo in precedenza. Si vende anche un po' di libri. E qua c'è, immagino, ci sono margini di crescita molto interessanti, soprattutto per un paese che ha tante belle cose, che produce tante belle cose, penso oltre che all'abbigliamento anche alla gastronomia, e che potrebbe venderne molte anche online. Assolutamente d'accordo con lei, questo è un ambito in cui l'Italia deve assolutamente lavorare, perché potrebbe essere un ambito di eccellenza. Non è vera la stessa cosa negli altri paesi, in questo caso l'Italia ha una quota di export nel commercio elettronico superiore alla quota di export che hanno gli altri paesi. Quindi questa è una notizia interessante. Sistemi di pagamento, carta di credito per prima? Assolutamente sì, gli italiani quando comprano online usano, come giusto che sia, la carta di credito senza particolare timore. Da questo punto di vista, peraltro, i nostri dati dicono che il fenomeno delle frodi è un fenomeno assolutamente insignificante, pesa meno dello 0,2% sul totale del commercio elettronico di cui le parlavo in precedenza, e in ogni caso chi ci rimette poi è il merchant, è il venditore, non è il consumatore finale. Quindi questa è una di quelle leggende che bisogna pian pianino sfatare. Un'ultimissima cosa, è vero che comunque si fa fatica ad utilizzare la carta di credito in Italia e questo un po' frena il mercato elettronico? Ma questo è sicuramente uno dei fattori, i fattori che frenano il commercio elettronico sono tanti. Come le dicevo prima, noi pensiamo che il primo e più importante sia il fatto che certe categorie merceologiche non si possono ancora trovare online. Se lei prova a comprare online, ad esempio arredamento, per fare un esempio, o prodotti per la casa, fa una fatica enorme. Prima ancora di porsi il problema dell'uso della carta di credito o della banda larga. Perego, io la ringrazio per essere stato con noi e le auguro buon lavoro, a presto. Grazie a voi. Riprendiamo questa puntata di 2024, vi ricordo che andiamo in onda il sabato nel pomeriggio di Radio 24, sempre tra le 15.30 e le 16.30, oppure ci trovate anche online sul nostro sito internet www.radio24.it. C'è un modo molto semplice per scaricare il file MP3 della nostra trasmissione, ovvero abbonarsi gratuitamente al servizio podcast. Se volete altre informazioni potete scriverci a 2024@radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini, vi ringrazio come sempre per la vostra attenzione e anche per le email che ci inviate ogni settimana. Abbiamo alcune notizie prima di parlare di audio e video digitale. Dalla prossima settimana, da domani in modo particolare, ma domani il traffico sarà limitato, comunque tra poche ore, diciamo così, Alitalia comincerà ad utilizzare il check-in e l'imbarco tramite cellulare. Il servizio sarà limitato per il momento ai passeggeri della tratta Roma-Fiumicino e Milano-Linate. In questo modo i passeggeri potranno non solo fare il check-in con uno smartphone, cosa che già avviene, ma anche ricevere un codice a barre sullo schermo del telefono che funziona come carta di imbarco, quindi si va direttamente all'imbarco con il telefono cellulare. Si tratta di una novità per il mercato italiano, ma non per quello internazionale, dove questi servizi sono già utilizzati da tempo, non solo nel trasporto aereo. Due notizie che riguardano Google. L'azienda ha annunciato che acquisterà AdMob, una delle più grandi reti di pubblicità su telefonia mobile, pagando, pensate, 750 milioni di dollari. L'acquisizione sarà la terza per dimensioni, per valore, nella storia di Google, dopo quelle di DoubleClick nel 2008 per 3,1 miliardi di dollari e YouTube nel 2006 per 1,65 miliardi. La seconda notizia riguarda il servizio Street View, che è stato messo sotto accusa dal garante per la privacy svizzero, secondo l'Ufficio federale svizzero per la protezione dei dati. Nel servizio Street View numerosi volti e targhe di autoveicoli non sono stati sufficientemente mascherati, in più che le fotocamere utilizzate dalle automobili di Google sono posizionate troppo in alto, consentendo quindi con le riprese di superare recinzioni oppure siepi o muri. Quindi si va in tribunale e vedremo chi chi vincerà. Google sostiene che questo è un servizio perfettamente legale, anche se non è la prima volta che l'azienda deve difendersi da accuse del genere. In qualche parte del mondo ha dovuto rifare alcune fotografie. Adesso parliamo di alcune notizie, ma poi parleremo di digitale terrestre. Saluto il nostro esperto di audio e video digitale, Gianfranco Giardina. Gianfranco, bentornato a 2024. Grazie e bentrovati a tutti gli ascoltatori. Gianfranco Giardina è direttore del magazine online dday.it. All'inizio della settimana, la prima notizia della settimana riguarda due grandi marchi che producono, o forse meglio dire per uno produceva, TV, tra l'altro voi dite le migliori TV al mondo, ovvero Pioneer e Panasonic. La notizia forse la si sapeva già, Gianfranco, ma è interessante perché, beh, diciamo anche qual è la notizia. Beh, la notizia è che lo scorso anno Pioneer ha praticamente ceduto a Panasonic tutte le sue attività legate alla produzione dei plasma, compreso il centro di ricerca. Nell'accordo era contenuto, insomma, tutte le tecnologie attuali, ma non tutti i brevetti che Pioneer aveva già depositato riguardanti i TV che dovevano nascere sotto marchio Pioneer, di cui si era già visto qualche prototipo, e sicuramente erano dei plasma dalle prestazioni veramente incredibili. Il rammarico degli appassionati era che con questa cessione praticamente questi progetti futuri rimanevano nel limbo, e di fatto Pioneer non l'avrebbe più portati avanti, né Panasonic avrebbe potuto, non avendo tutti questi brevetti. L'accordo invece è stato completato in questi giorni, quindi tutti i brevetti, anche quelli non ancora applicati sui TV correnti, sono stati trasferiti a Panasonic, che quindi potrà farne uso per le nuove generazioni di TV. E ovviamente, molti sperano per produrre, voi dite, i migliori TV del mondo. Beh, noi speriamo, ovviamente, tutti lo sperano, ma soprattutto c'è un'altra speranza. La vera speranza è che si riesca a fare dei TV con le prestazioni di quelli Pioneer, ma con i prezzi, no, un pochino più accessibili, più simili a quelli Panasonic, quindi che si riesca a fare su una gamma, su un numero di pezzi più ampio, quindi a spalmare questi costi di ricerca e sviluppo su una produzione più ampia, in modo tale da avere dei costi più contenuti. E sicuramente le prestazioni che avevamo visto un paio d'anni fa nelle fiere internazionali, in cui c'erano dei TV al plasma col nero, perfettamente nero, assolutamente compatto, con dei contrasti incredibili, dei colori bellissimi, insomma, sicuramente tra i grandi schermi i TV migliori che abbiamo visto in funzione. La scelta della TV è sempre nel top, quindi in cima alle liste di molti consumatori. Allora dedicheremo, non solo alla TV, ma partendo dalla TV, una puntata speciale, poi altre puntate nel corso del mese di dicembre. Inizieremo il 5 di dicembre con Gianfranco Giardina, anche per rispondere alle domande degli ascoltatori. Ditelo ai vostri amici tutti i dubbi su TV, plasma, LCD, lettori Blu-ray. Tra l'altro, a proposito di lettori Blu-ray, su dday.it avete fatto una prova comparativa che quasi quasi potremmo dire sorprende, perché avete provato più macchine, quindi più lettori Blu-ray, e avete scoperto che sono tutti uguali. Sì, sono tutti uguali nella riproduzione dei dischi Blu-ray. Cioè, per quello che riguarda la componente video, si sentiva dire, magari sui forum, tra i sedicenti esperti, che in qualche modo un tal lettore era più nitido, dava un'immagine migliore di un altro, eccetera, eccetera. Abbiamo fatto un test assolutamente scientifico, abbiamo catturato in digitale i singoli fotogrammi di una serie di film, li abbiamo confrontati, ma no, non a occhio, ma numericamente, quindi in maniera digitale, tra tutte le catture fatte da diversi lettori, e le differenze sono state che non ci sono differenze. Ma d'altronde noi ce lo aspettavamo, il disco è digitale, la risoluzione è già Full HD, il segnale che esce è un segnale digitale Full HD, in pratica il lettore deve prendere il valore del bit e trasferirlo sul cavo in digitale, non deve fare molto di più in quel caso. Quando deve fare di più, e quindi quando le prestazioni invece incominciano a sentirsi? Beh, sicuramente con l'audio, se ascolto l'audio in analogico, perché lì deve fare una conversione dal digitale all'analogico, e quindi i convertitori migliori forniscono le prestazioni audio migliori. Ma soprattutto, sembra assurdo, le vere differenze sono nella visione dei DVD. Ah, incredibile. Perché il DVD deve essere letto e riscalato in Full HD, perché comunque il Blu-ray esce in Full HD, e questa operazione di rescaling può essere fatta, è un'operazione che comporta molti calcoli, quindi può essere fatta bene o può essere fatta male. Cioè, il paradosso a quale non si pensa in un primo momento è che per un lettore di Blu-ray leggere un DVD, che in standard definition è un lavoro più complicato che leggere un Blu-ray che invece è Full HD, perché sì, quello sì, ha sì. già i dati in Full HD, questi invece devono essere ricostruiti. E allora lì le differenze si vedono un po' di più, ma sulla lettura dei Blu-ray fondamentalmente sono tutti equivalenti. Senti, il prezzo dei lettori Blu-ray si è abbassato ulteriormente, cioè a che livello siamo arrivati? Beh, inutile parlare dei prezzi di listino, soprattutto adesso che siamo sotto Natale e ci sono le promozioni. Ho visto qualche giorno fa un lettore di una primaria marca, quindi non un B-brand, una marca importante, a 99 euro in vendita. Incredibile. Quindi sicuramente una cosa interessante. Come ho visto una splendida offerta su una catena di il lettore e 20 titoli, quindi 20 dischi Blu-ray a 199 euro, quindi a molto meno del prezzo dei soli dischi. Quindi. Tu pensi, non so se esistono dati di mercato, che oggi la maggior parte dei lettori per vedere film, quindi dischi che possono essere DVD o Blu-ray, siano effettivamente Blu-ray o ancora si vendono i vecchi DVD? Player? Siamo lontanissimi dall'avere un parco installato importante di Blu-ray. Soltanto adesso ci si sta arrivando con i prezzi che sono arrivati a un livello che veramente convincono. Invogliano. Anche perché un Blu-ray che fino a qualche mese fa costava 300, 400, 500 euro viveva in maniera incredibile la concorrenza di un DVD player che invece ne costava 29, 39, 49. Ah, certo. E quando non molti ricordano che solo 8-9 anni fa, al momento del lancio del DVD, i lettori DVD costavano in lire ovviamente 1,5 milioni. 1,2 milioni, 1 milione di lire, e quindi insomma cifre molto importanti, eppure si incominciavano a vendere. Il Blu-ray fa più fatica perché il suo prodotto che va a sostituire il competitor naturale, che è il DVD player, oggi costa poche decine di euro. Ricordiamo, ma per alcuni forse è inutile ripeterlo, che naturalmente per vedere un disco in Blu-ray bisogna poi avere la TV Full HD, questo è importante, o HD Red, insomma. Certo. Come vi dicevo poco fa, ci occupiamo di digitale terrestre, ci sono delle notizie che riguardano Roma e il Lazio, buona parte del Lazio, perché da lunedì c'è il cosiddetto switch off. Switch off in inglese vuol dire spegnimento. Gianfranco, allora vengono spente le frequenze analogiche e da lunedì, dicevo, Roma, che è una, tra l'altro dicono, la più grande zona metropolitana d'Europa a passare alla TV digitale, e buona parte del Lazio non si vedranno più i vecchi canali analogici, quindi lì viene completata una cosa che è già stata completata in Sardegna, in Valle d'Aosta, in Trentino, Alto Adige, eccetera, eccetera. Certo. Buona parte del Piemonte. Certo. Lì sì, si passa quindi al solo digitale, e ci si aspetta anche un grande trambusto nei negozi, devo dire la verità. L'italiano ha dimostrato già in passato di non essere molto previdente quando si parla di cambiamenti tecnologici, ma di aspettare simpaticamente, diciamo, di avere la pistola alla tempia, sì, ecco, di esserci costretto, insomma. Non è proprio una pistola questa, ma insomma alla fine, anche se devo dire molto correttamente, tutti i canali televisivi principali stanno già annunciando da tempo, alla fine per esempio delle trasmissioni, se vorrai rivedere settimana prossima questa trasmissione sappi che devi passare al digitale, perché okay. Quindi un po' di ansia positiva, diciamo così, te la mettono per spingerti a cambiare velocemente o il TV, oppure ad affiancare al TV un ricevitore digitale. Sicuramente qualche problemuccio ci sarà, ma le altre aree, devo dire, ci si è creato un po' di ressa nei negozi, alcuni negozi hanno venduto anche 5.000 ricevitori in un giorno, quindi delle cose incredibili, però in pochi giorni tutti il problema rientra, i grandi, diciamo, problemi si rientrano. Ricordiamo, per chi si fosse dimenticato e che non avesse seguito anche le nostre puntate, o comunque non avesse seguito anche l'attualità, visto che molti ne parlano soprattutto nelle zone interessate, che ad un TV deve corrispondere, o si tratta di un TV nuovo già equipaggiato con un decoder digitale terrestre, o comunque i vecchi TV diventano nuovi automaticamente applicando un decoder che si compra in tutti i negozi a prezzi popolari, direi. Sì, assolutamente, il decoder che non permette di vedere i canali a pagamento ma soltanto quelli gratuiti costa qualche decina di euro, 29 euro, 39 euro, cioè cifre di questo tipo. C'è una cosa interessante però da suggerire agli ascoltatori, soprattutto sulle TV magari più piccole o posizionate in posti un po' scomodi. Sì, sulle mensole piuttosto che addirittura appesi al muro. Esistono dei ricevitori molto piccoli che in realtà sono come delle prese scarte un pochino allargate, che quindi restano ospitate dietro il TV e che di fatto però integrano tutta la logica del ricevitore e quindi permettono di aggiungere la funzionalità digitale terrestre ai TV senza avere un box esterno da appoggiare da qualche parte, no? Il classico set-top box, appunto. Questo permette appunto di salvare i vecchi TV, magari quelli della cucina, quelli della cameretta, anche laddove non ci sia un appoggio comodo per installare la scatola. Ecco, non tutti lo sanno che esiste questo form factor e quindi magari si affrettano a comprare il ricevitore con un po' troppo di superficialità. Attenzione, perché questa è una soluzione che magari con una decina di euro in più permette di avere effettivamente una soluzione logistica non banale. Resta comunque per tutti coloro che scelgono il ricevitore esterno un limite logistico, e questo resta sempre finché non si cambia TV, il fatto di avere due telecomandi, quindi un telecomando per accendere l'apparecchio TV e poi bisogna impugnare l'altro telecomando, quello del decoder digitale, per cambiare i canali. Altro consiglio, ricordare sempre che nella confezione dei decoder, anche per raggiungere prezzi sempre più competitivi, c'è molta lotta in questo momento, quasi sempre non sono contenuti i cavi di connessione, quindi né il cavo SCART che permette di collegarsi al TV, né il cavo d'antenna, cose da pazzi, un paio di euro ovviamente, però bisogna ricordarsi, se no il viaggio verso il negozio, andata e ritorno, si è duplice. Tu dicevi cose da pagare, io dicevo cose da pazzi, cioè non mettere i cavi che sono necessari. Senti, ricordiamo agli ascoltatori che sabato 5, insomma nelle nostre puntate di dicembre, in diretta anche con voi ascoltatori, con le vostre domande, parleremo naturalmente anche di digitale terrestre, insomma di tutti i dubbi che ancora avete, però altri due consigli molto brevi in questi ultimi minuti. Uno riguarda l'antenna, perché alcuni dicono con il digitale terrestre è necessario fare alcune modifiche, quindi chiamiamo l'antennista. Meglio però aspettare, giusto? Sì, non è escluso che sia da fare piccoli interventi sull'impianto, però il vero riassetto delle frequenze, la riassegnazione al digitale delle frequenze prima utilizzate dall'analogico avviene soltanto dopo che le frequenze analogiche sono spente, quindi per Roma diciamo dalla prossima settimana in poi, e normalmente queste operazioni impiegano anche un 2-3 giorni prima di essere portate a termine su tutti i ripetitori. Che cosa significa? Che fare degli interventi all'antenna prima di questa scadenza significa fare degli interventi che magari potrebbero essere o non necessari oppure addirittura da ripetere o da correggere. Quindi il consiglio è quello, a questo punto assolutamente, di non fare nessun intervento fino al passaggio, al switch off, vedere che canali effettivamente si vedono. Probabilmente anche chi oggi non vede tutti i canali in digitale, perché c'è questa coabitazione delle frequenze, col passaggio al solo digitale riuscirà a vederli tutti e quindi non avrà probabilmente nessun problema. Chi soltanto allora dovesse avere qualche problema, allora si deve rivolgersi all'antennista. Dunque, un minuto per dire non solo sì o no, è vero che i videoregistratori non funzioneranno più? I videoregistratori VHS non funzioneranno più, nel senso che non possono più registrare autonomamente delle trasmissioni TV. Devono essere collegati anch'essi a un decoder, un decoder dedicato a loro ovviamente, però con la difficoltà che io devo programmare l'orario di registrazione sul registratore e il canale di registrazione sul decoder. E quindi è una cosa un pochino laboriosa. In alternativa bisogna passare a un DVD recorder o un hard disk recorder, ma non qualsiasi, che riporti sul frontale il logo DVB-T, che significa che è compatibile con le trasmissioni digitali terrestri. Altrimenti ci sono ancora purtroppo sul mercato dei DVD recorder non compatibili col digitale terrestre e quindi soffrono allo switch off dello stesso problema di cui soffrono tutti i videoregistratori VHS. Ricordiamo, non esistono videoregistratori VHS che integrino la logica digitale terrestre. Il motivo, onestamente, mi sfugge, perché se qualche produttore lo facesse, se non fosse altro per tutta quell'utenza che vuole andare avanti con la sua abitudine a registrare sulle cassette, certo, sicuramente sarebbe un prodotto con un discreto mercato. Molto bene, anche di questo parleremo appunto sabato 5 dicembre, vi aspettiamo. Gianfranco, grazie per essere stato con noi, buon lavoro, a presto. Grazie mille. Era Gianfranco Giardini, il nostro esperto di audio e video digitale. Gianfranco Giardina dirige e guida il magazine online dday.it, dove trovate altre informazioni sul digitale terrestre, ma in generale insomma sull'elettronica di consumo. È tutto per questa puntata, per questa versione del nostro programma. Per chi scarica il nostro programma attraverso il servizio podcast, questa settimana vi abbiamo offerto alcune interviste nella loro versione integrale, quindi con più contenuti. Beh, quando il tema merita e anche quando le interviste sono interessanti, vi offriamo qualche cosa in più nella versione podcast, quindi abbiamo la possibilità di allungarci un po'. Come sapete, i tempi invece della messa in onda tradizionale a volte sono un poco ristretti. Il nostro indirizzo di posta elettronica è molto semplice, 2024 scritto in cifra, @radio24.it. Potete scriverci per qualsiasi motivo. Vi ringraziamo per le numerose email che ci scrivete ogni settimana. Noi ci risentiamo la prossima settimana, sempre il sabato, nel pomeriggio di Radio 24, oppure se preferite, se volete, così come avete fatto in questa occasione, oppure anche in altre occasioni, nella nostra versione podcast. Io sono Enrico Pagliarini, grazie ancora per la vostra attenzione. Appuntamento tra 7 giorni. You are disconnected.